Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Oltre il 30% dei certificati medici dei lavoratori dipendenti viene presentato di lunedì. Tra le regioni italiane il record spetta alla Calabria, con 34,6 giorni medi di malattia all'anno, che salgono a quasi 42 nel settore privato. I dati emergono da una ricerca della CGA di Mestre relativa all'anno 2012, quando sono stati 6 milioni i lavoratori dipendenti italiani che hanno registrato almeno una malattia. Mediamente ciascuno di loro si è ammalato 2,23 volte ed è rimasto a casa 17,71 giorni. Oggi è lunedì, voglio dare un contributo concreto alla comunità scientifica. Chiedo agli ascoltatori che in questo momento sono, ma certo in maniera malaugurata e senz'altro del tutto accidentale, in malattia, che mi chiamino e mi dicano cosa è successo nel loro fine settimana perché si ammalassero lunedì. Oggi vi daremo qualche altro elemento su questa ricerca importantissima fatta dall'Associazione Artigiane e Piccole Imprese di Mestre, che ha avuto scandagliare quelli che sono i giorni di malattia presi dai dipendenti. Vi riassumo, poi sentiremo qualcuno di loro ci dà qualche approfondimento sui dati. In maggior parte sono i dipendenti pubblici che si ammalano, meno i dipendenti privati. In maggior parte ci si ammala in certe regioni italiane, hanno fatto l'elenco, che è Calabria, Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, e questo probabilmente è più facilmente capibile perché ci sono delle condizioni climatiche, probabilmente che è più facile ammalarsi in Calabria che ammalarsi nel nord-est, ma questo appartiene a chi studia alcuni fattori che incidono sulle epidemie, sulle malattie, sui malesseri e via dicendo, potrebbe dire magari dipende dal clima, dipende dall'acqua, dipende dall'aria. Ci sono delle circostanze ambientali per cui è più facile che si ammalino in Calabria piuttosto che, non so, a Bolzano. Ma andando avanti in questa linea ricalcheremo e riverberemo i soliti tristi e stradetti luoghi comuni sul sud e sul nord. No, mi interessa a me quest'altro dato: il lunedì ci si ammala. Come mai il lunedì? Evidentemente accade qualcosa nel fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera, per cui gli italiani si ammalano 18 giorni all'anno in media di malattia, prevalentemente nel 30% il lunedì. Cosa accade agli italiani il lunedì? 800 24 0024, voi che siete in malattia in questo momento, state a casa, state lì col termometro in bocca, con la copertina, con la borsa dell'acqua calda, con la moglie o il marito vi sta facendo il soffritto, approfittatene per dare un contributo a questa ricerca scientifica. Paolo Zabeo, buongiorno. Buongiorno a lei. Coordinatore dell'ufficio studi della CGA di Mestre, Associazione Artigiani Piccole Imprese di Mestre. Questa vostra ricerca ha dato dati che in qualche maniera confermano pregiudizi, e su questo magari diciamo qualcosa, perché il fatto che sia indicata la Calabria come la regione dove si fanno più malattie sul lavoro potrebbe dare adito comunque al solito discorso che al sud si lavora meno e incrementare discorsi del genere, però se il dato rilevato è questo mi sembra che non ci piova. Sì, nel senso che noi nella nostra ricerca abbiamo premesso che sarebbe forse ingiusto, insomma, ingeneroso strumentalizzare i risultati di questi dati, però insomma, quello che emerge è inconfutabile, per cui noi abbiamo una forte differenza tra nord e sud del paese e soprattutto abbiamo che il 30% dei certificati medici viene appunto certificato, viene praticamente fatto dal medico, sottoscritto dal medico di lunedì. Quindi sostanzialmente abbiamo cercato di capire innanzitutto. Ecco, su quale base dati vi siete orientati per dare, diciamo, corpo scientifico alla ricerca? Sì, i dati sono stati estrapolati dall'osservatorio sulla certificazione di malattia di lavoratori dipendenti pubblici e privati dell'INPS, che è stato avviato nel 2011. Ovvero dal 2011 i medici di base hanno l'obbligo di inviare telematicamente all'INPS i certificati di malattia e quindi da questo periodo è possibile in qualche modo avere un quadro puntuale sul appunto il numero delle malattie, del numero di ammalati che si registrano tra i lavoratori. Quindi il dato è inconfutabile, questo gli ho domandato. Il dato è inconfutabile, sono dati INPS, sono chiaramente anche consultabili sul sito, poi noi chiaramente abbiamo fatto delle ulteriori elaborazioni, ma io penso comunque che al di là del caso estremo della Calabria, che mediamente appunto presenta 34,6 giorni di malattia media per lavoratore, anche se poi è vero che nel settore contro privato, i quasi 18 del resto d'Italia media, col quasi 18, poi è vero che al secondo posto abbiamo la Sicilia che è molto più giù in termini appunto di giorni, quasi 20, e la Campania 19,4. 34 mentre... giorni di malattia all'anno, cioè, tanto. Poi tenga presente che si devono aggiungere giustamente le ferie e poi anche i permessi eccetera, quindi è chiaro che magari insomma nelle regioni del sud, gli imprenditori del sud insomma forse questo problema lo conoscono e lo soffrono tremendamente. Però è altrettanto vero che ci sono anche delle, almeno noi abbiamo cercato anche di capire perché succede questo soprattutto nel fine settimana. La conclusione che siamo arrivati è che ovviamente nel fine settimana cambiano, no, un po' gli stili di vita di ognuno di noi, magari si concentrano le attività conviviali e quelle legate al tempo libero, quindi magari emergono poi alla domenica sera o al lunedì tutta una serie di acciacchi, e poi abbiamo visto anche che negli ultimi anni con la crisi economica moltissime persone sono costrette nel fine settimana a fare quei lavori di piccola manutenzione del giardino piuttosto che dell'abitazione che una volta magari delegavano all'artigiano o al tecnico, ma adesso con la stretta diciamo così economica in atto fanno da sé, e quindi questo aumenta praticamente il numero di acciacchi. Diciamo che lei in questo sono delle ipotesi non sì, corroborate. Ovviamente sono delle ipotesi, anche se tendono un po' a addolcire il dato, che pensare che si ammalano lunedì perché non fai lavoretti, il bricolaggio, il giardinaggio il fine settimana. Magari la malattia o l'infortunio scatta il sabato o la domenica, non essendoci il medico di base che svolge l'attività ambulatoriale tipica, sono durante la settimana, appunto sabato domenica no, è chiaro che si presentano dal medico il lunedì e quindi questo fa la certificazione, la fa direttamente all'INPS di lunedì. Sentiamo un attimo qualche ascoltatore, un attimo, 800240024, la domanda è perché il lunedì gli italiani si ammalano più degli altri giorni. Massimiliano. Buongiorno Nicoletti. Lei come la vede? Già detto il vostro ospite, essendo i medici aperti solo 5 giorni su 7, il lunedì raccolgono anche tutte le malattie che sono iniziate il sabato e la domenica, e quindi statisticamente è ovvio che il lunedì abbia un 30%, a 3 giorni su 7 che è ben più del 30%, quindi quelli che non guariscono entro il lunedì ovviamente il lunedì si devono presentare dal medico. Non sì, ci ma trovo fatto... nulla di assurdo in questa statistica. Quindi per lei è normale? Mi sembra assolutamente in regola con la statistica, 3 giorni su 7 finiscono al medico il lunedì. 1 su 7 il martedì, 1 su 7 perché il venerdì non si può fare il certificato? No, domanda. No, ma se uno si ammala il venerdì alle sera. 7, ha lavorato tutto il venerdì, e se lunedì non guarisce lo presenta lunedì, ma l'avrebbe dovuto presentare sabato, quello conterebbe come un sabato se i medici fossero aperti tutta la settimana. Ah, quindi secondo lei è statisticamente non è diciamo... Non è rilevante assolutamente, il 30%, anzi mi sarei aspettato di più insomma. Va bene. Su 7 è più del 30%. Sentiremo il nostro ospite se è d'accordo in questa lettura. Okay. Luciano, buongiorno Luciano, grazie comunque. Luciano. Buongiorno Giannino. Intanto, sì, no, Giannino, non sono, ma mi dispiace purtroppo per me. Vabbè, comunque va bene. È un onore. Ma no, bene, mica mi fanno offesa, anzi, ne sono lusingato. Però si aggiorni, Giannino e io abbiamo avuto spostamenti vari. Capisco che sì, appunto, tutto fa brodo. Non ho tutto questo tempo per seguirvi tutti gli spostamenti, io vi ascolto in auto. La mia domanda però è per il signore della CGIA di Mestre, che riguarda questo. Si hanno dati anche sull'età degli ammalati? Perché è una mia teoria. Ma dica, e siamo qui per dare un contributo. L'abitudine al bere. Guardi un po', pensavo proprio a questo mentre l'ascoltavo. L'abitudine al bere? L'abitudine al bere è aumentata soprattutto nelle fasce di età più giovani. Io che frequento ancora le discoteche nonostante i miei 54 anni. Lei da sotto ancora con l'alcol? No, io non bevo proprio. Io bevo acqua. Ho bibite, ma non bevo alcol. È l'abitudine al bere fa sì che il lunedì mattina sono ancora con la ciucca del sabato. È un po' pesante. I giorni in cui si va a ballare sono i fine settimana. Ma si va il sabato o la domenica? Si va il sabato o la domenica? Perché sabato e la domenica si va a ballare, e quindi lunedì con la testa pesante è difficile andare. Quindi lei vanno troppo a ballare, bevono, e per questo lunedì sono. Vediamo, ci sono altre teorie, altre ipotesi. Noi ci fermiamo solo un istante che diamo le informazioni del traffico, però finora sono usciti due temi. Un ascoltatore che dice che statisticamente, essendo 2 giorni senza medici, quindi statisticamente sono più, perché i poverini che si ammalano il sabato e la domenica, guardate che sfortuna, devono andarci lunedì a fare il certificato. Un altro ascoltatore dice che alzano il gomito, ballano e bisbocciano il fine settimana, e quindi il lunedì non ce la fanno, poverini. Melog. Cronache meridiane. 800 24 00 24, stiamo raccogliendo ipotesi su perché gli italiani si ammalino più il lunedì. Ricordo che siamo partiti da una ricerca della CGA di Mestre, Associazione Artigiani e Piccole Imprese, che ha fatto un'analisi, visto che da qualche anno i medici di base sono obbligati a mandare all'INPS il certificato quando certificano un problema di salute che impedisce al lavoratore di andare a lavorare, e quindi su questi dati statistici hanno stilato un esempio di chi si ammala più, chi si ammala meno. Al di là delle circostanze regionali e ambientali, sono regioni in cui si ammala molto di più che nel resto d'Italia, è il problema del lunedì. Come mai il lunedì si presentano più certificati? Giuseppe, lei come la vede? Buongiorno, sì. Buongiorno Nicoletti, è un piacere sentirla. Guardi, io la penso in un modo molto semplice, indipendentemente dalle statistiche, che comunque avvalorano quello che io sto per dire, io credo che in Italia ci sia tantissima gente che non ha voglia di fare un tubo, e poca serietà, poca responsabilità, tanto chi se ne frega, e per quello che noi a posto non ci avremo mai, basta, non ho nient'altro da dire. Ma sul lunedì non mi ha detto il suo punto di vista però. Com'è? Ma lunedì perché sai, sabato e la domenica spesso e volentieri si esce, si prende freddo, no? E lunedì mattina quale occasione per guarire, per stare a casa e farci un weekend lungo. Io credo che queste statistiche la dicono proprio veramente lunga sulla serietà dell'italiano medio. Anche perché bisognerebbe, se uno va fuori, metta caso, faccio un'ipotesi, tornare la domenica sera con le code, il rientro, se uno preferisce rimanere fuori magari nella seconda casa, io dico come ipotesi, non dico sia così, rimane a dormire domenica sera, riparte il lunedì e si ammala e si guadagna un giorno, così dice. La coda, poi magari c'è il finestrino aperto, si prende un po' di aria. Sta ironizzando, no? Sta dicendo che tutta, che c'è dietro. Beh, certo, chiaro. Va bene. È chiaro. Leonardo come la pensa? Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ma io, guardi, sono un donatore di sangue, no? E le prime volte, parlo di anni fa, quando andavo a donare il sangue, un giorno sono andato di lunedì mattina, alle 7 di mattina, attenzione, alle 7 di mattina. Beh, digiuno, chiaro. Digiuno, ok. E poi verso le 8 è cominciato ad arrivare il flusso e chiedo, ma come mai tutta sta gente viene a donare verso le 8? Ma perché tu doni il sangue, non vai più a lavorare, ti pagano la colazione, e questo succede anche quando c'è lo sciopero, per esempio. Se c'è uno sciopero dei metalmeccanici, quel giorno lì tu non puoi andare a donare il sangue, perché vanno tutti a donare il sangue, così fanno lo sciopero, percepiscono comunque i soldi anche se c'è sciopero, e stanno a casa. Ma lei ha dei dati certi, è una sua ipotesi questa? No, non è una mia ipotesi, lei vada a donare il sangue un giorno che c'è lo sciopero dei metalmeccanici. C'è la fila, dice. Non si può entrare, perché così prendono i soldi, perché se doni il sangue comunque l'azienda ti paga. Ok? E non puoi entrare, non puoi entrare. Io, per carità, io parlo, sono un libero professionista, perciò per me la malattia non esiste, ma nel senso che, cioè, io devo andare a donare il sangue. Due settimane fa sono andato a donare il sangue, di sabato mattina alle 7 eravamo in 4. E lunedì c'è la fila? Lunedì c'è la fila, no? No, mi fa venire in mente quando facevo il militare, se uno donava il sangue c'era la licenza sangue, e lo so, era ricattatore, ma io mi sono fatto parecchie licenze sangue. Io ho iniziato a donare il sangue, a militare 29 anni fa. Licenza sangue, uno dava il sangue, si spompava un bel siringone, però dopo tornava a casa, che magari si scaricava altrimenti. Grazie. Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi CGA di Mestre. Ha avuto qualche... questa qua del sangue la sapevate voi? È possibile tracciare un dato incrociato rispetto a questo? Non so che rilevanza statistica possa avere. Però è possibile ritrovare il dato? Perché... sì, bisognerebbe spulciare meglio, ma insomma adesso verificheremo magari anche questo. Cosa le è venuto in mente dalle reazioni degli ascoltatori? Un paio di cose. La prima, che ovviamente noi da questa ricerca non siamo in grado di dimensionare quanti sono i furbetti, tra virgolette, che il lunedì fanno i malati immaginari. Quindi questo, però il fatto che ci sia una forte concentrazione di certificati medici all'inizio della settimana è un po' sospetta, ma soprattutto è interessante notare che da questa ricerca vengono meno due luoghi comuni. Il primo è che i dipendenti pubblici si ammalano di più rispetto ai privati. In realtà non è così. Ah, l'ha letto male allora la ricerca? No, lei ha letto benissimo, nel senso che Mediamente un lavoratore dipendente del pubblico si ammala di più rispetto al privato, però in termini di giorni è inferiore, cioè mentre i dipendenti pubblici stanno a casa mediamente per malattia 16,7 giorni all'anno, nel privato sono 18,1, quindi si ammalano di più ma la durata della malattia è inferiore. Cioè loro possono diciamo fare a singhiozzo, malattia a singhiozzo più facilmente, sì, il privato magari si ammala veramente, si pianifica la malattia. Già uno si ammala veramente, sta a casa non esatto. Un giorno e basta, sta a casa una settimana se sta male davvero. Così e poi l'altro aspetto è che appunto sfatiamo un altro luogo comune, che i giovani sono più malaticci degli anziani. In realtà non è così, e abbiamo notato che man mano che cresce l'età anagrafica crescono anche i giorni medi di malattia per lavoratore. Ad esempio nel 2012 per i ragazzi fino a 29 anni la malattia media è stata di 13,2 giorni, per una persona tra i 50 e i 59 anni è stata di 22 giorni, sale addirittura a 27,5 giorni e mezzo per gli over 60. Quindi c'è una corrispondenza lineare, più si è anziani e più aumenta anche i giorni di malattia. Quindi sono malattie reali, concrete, sono più acciaccati, sale l'età. Salvatore, buongiorno. Buongiorno, sì. Allora io volevo intanto fare una considerazione su quelle cose che sto sentendo, cioè lo sciopero, il sangue. Io penso che intanto la ricerca è stata fatta, credo, se ricordo, se ho letto bene, al 2012, quindi generalizzare... Ci vuole il tempo, è cominciato il 2012, l'hai recettificata all'INPS, no, il tempo di elaborare... No, è stato il 2012, credo che sia stato fatto sul 2012, ho letto almeno così, sull'anno 2012. Però al di là di questo, i calcoli del sangue e non del sangue credo che siano, lasciano il tempo che trovano. La gente si ammala, primo perché ha voglia di starsene a casa, di allungare i giorni di assenza e tutto, e poi perché ci sono i medici compiacenti. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, perché basta fare una telefonata per fare un certificato di 5 giorni, poi passo a ritirarlo o passo a mia moglie a ritirarlo. Intanto, cioè beati voi però, perché io devo dire che c'ho un medico di base che... ho avuto occasione di persone malate con la febbre, ci farle venire giù a fare il certificato, anche un po' difficile, al telefono non ho mai avuto un certificato. Poi ci sono quelli, ecco, la mia testimonianza, la seconda cosa che voglio dire, io ho lavorato per 36 anni in un'azienda privata, per 36 anni, e ho fatto ben 4 giorni di assenza per malattia, 4 giorni, di cui 3 nei primi 2 anni, uno nei primi 2 anni, e il terzo l'ho fatto... credo dopo 10 anni che lavoravo. 36 anni, 4 giorni di malattia. Guarda, io non vorrei essere smentito, ma io mi sembra che in 30 anni, 32 anni che lavoro, non ho mai fatto giorni di malattia, mi ricordo. Però faccio anche un lavoro per cui star male è difficile. Ma anch'io non ero alla catena di montaggio, per carità. Però voglio dire, le malattie ce l'ho avute anche, le mie febbre le ho avute anche, sono andato a lavorare perché pensavo che fosse più importante andare a lavorare. Diciamo sì, c'è una categoria di persone a cui mi ci metto, se c'è la febbre la mattina comunque va a lavorare, poi passerà. Pensa così, non si mette a letto. Grazie Salvatore. Giuseppe. Sì. Il suo punto di vista o la sua esperienza? Allora, in Calabria voi avete detto che risultano più giorni di malattia rispetto a 36 invece che 18. Ma questo qui è perché qui, essendo che c'è un sacco di lavoro fittizio, soprattutto in agricoltura, che sono tutti d'accordo tra medici che fa il certificato, i CAI, i sindacalisti che fanno poi la domanda. Di dov'è lei, Giuseppe? Di dov'è lei, Giuseppe? Dalla Calabria. E quindi c'è un giro così di vantaggi per tutti, ma questo lo sanno tutti, lo sa l'INPS, lo sanno i sindacati, lo sanno, però è un giro che gli sta bene a tutti, hai capito? Perciò c'è questo differenza tra il nord e il sud della malattia, perché qui la maggior parte delle persone che vivono in paesi disagiati e quindi ci sono state... Ci si aiuta, aiutati che Dio ti aiuta in questo modo, però è un fatto strano, anche perché per poi un imprenditore agricolo che gli servirebbe della manodopera per poter effettuare i suoi lavori in agricoltura si deve avvalere di manodopera straniera, perché qui in Calabria nessuno vuole lavorare. Con quelli non si ammalano mai. Mario, buongiorno. Mario? Caduto Mario. Mario era un giovane medico della mutua, dice chiedeva certificato, erano sempre le stesse persone, anche il suo gruppo lavoro erano sempre gli stessi. Una battuta finale, Paolo Zabeo della CGA di Mestre. Sì, sospetto è anche noi, non avevamo però il conforto dei dati, che la presenza del lavoro nero, soprattutto al sud, alimenti il numero di ammalati. Però ripeto, in linea generale sostanzialmente poi abbiamo visto che oltre il 70% degli eventi di malattia si esaurisce nei primi 5 giorni, quindi insomma sono malattie relativamente brevi fortunatamente, e quindi in qualche modo abbiamo visto poi che le differenze, tolte i casi limiti, le differenze con gli altri paesi non sono così praticamente elevate. Differenza però di quanto diceva l'ultimo radioascoltatore, non è che tutti ci guadagnano, perché da questa situazione sicuramente le imprese ci perdono, perché quando uno è a casa malato, in linea generale per i primi 4 giorni la retribuzione è interamente a carico appunto dell'impresa, e l'impresa solo successivamente è coperta in parte dall'INPS. Grazie, ci sentiamo domani.